off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, Lord, she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman, she been doing to me? I'm gonna find me a hole in the wall. I'm gonna crawl inside and die. Come later now, a mean old woman, Lord, never told me goodbye. Can't you see? Ben ritrovati ad una nuova, come sempre, ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono, come sempre, il vostro Jean-Luc. Altra puntata con ospiti in studio. Stavolta la formazione è veronese e, come sempre, è venuta a presentarci il proprio disco. A voi la parola per le presentazioni. Buonasera a tutti, noi siamo i The Roadless, veniamo direttamente da Verona. Io sono Manuel al basso, Gianluca alla chitarra, Cristian alla batteria, Sara alla voce. Il nostro Loris, che è andato a prendere qualcosina da bere, arriverà a momenti. E con i Roadless una puntata tra Southern Rock e Hard Blues, cominciando con la Marshall Tucker Band che abbiamo ascoltato con Can't You See dall'omonimo disco di esordio del 1973. Band guidata dai fratelli Caldwell, che ha saputo creare una miscela originaria di country, blues e rock che evoca spazi aperti e un sapore molto americano. Che ne dite? Beh, se è un disco di esordio, niente da dire, insomma. È estremamente Alabama come gruppo, cioè è proprio Southern dall'inizio alla fine. E tra l'altro è un gruppo che mi sembra suoni ancora insieme. Certamente. Sì, sì, con sì. Cambi di formazione, non ci sono più fratelli, sì, Caldwell. Esatto. Comunque suonano ancora. Quindi hanno saputo continuare nel loro percorso e darsi veramente da fare. Un bel genere e un bel gruppo, veramente. I Roadless sono assieme da 2008, una biografia in breve della band e perché avete deciso di trovare questo nome. Sì, siamo nati nel 2008, inizialmente eravamo in tre, eravamo io, Sara e Loris come gruppo acustico. Cominciavamo a girare nei localini così un po' di periferia per cominciare a far conoscere un po' il nostro genere, anche se comunque eravamo molto legati alle cover. Poi dopo vari cambi di formazione che sono arrivati, comunque siamo passati dall'acustico all'elettrico, abbiamo cominciato con cambi di formazione da, comunque riguardava tutto quanto bassista e batterista, fino ad ora che insomma abbiamo la formazione al completo con il Bomber al basso e Cristiano alla batteria. L'idea di questo nome è nata un po' per sbaglio, perché subito eravamo in tre, quindi ci sentivamo senza strada. E subito strade libere, poi strade come, strade colà, poi alla fine abbiamo scelto Roadless come nome, che forse era quello che ci identificava meglio. Ancora musica, passiamo alla Rossington Collins Band, nati dalle ceneri dell'Ina Skinnard, per volontà di due chitarristi Gary Rossington e Alan Collins, presenta alla voce la cantante Dale Kranz per un disco di esordio dal titolo Anytime, Anyplace, Anywhere del 1980, da cui ci sentiamo il brano One Good Man. Well, the Lord said, "Lot, hey brother, we got trouble." Durante lo spazio di 3 album hanno cercato di portare avanti l'esperienza della precedente band, aggiornando di poco il sound. Che ne pensate? Beh, ciao Gianluca, intanto, sono Loris. Ma io penso che comunque un gruppo abbia sempre bisogno di nuovi stimoli, quindi continuare a cambiare è il pretesto di un buon piano di battaglia. Anche noi con il secondo album cercheremo sicuramente di inserire nuovi suoni, nuove idee, nuovi pensieri, e questo per andare avanti, maturare, crescere, come tutti spero che facciano. Giusto, Loris. Vostre esibizioni, come sono andate? Quali più importanti in termini di esperienza? Le impressioni che avete raccolto dal pubblico alla fine di live? Più andiamo avanti, ci accorgiamo che i riscontri che incontriamo sono positivi comunque, e la cosa non può altro che darci felicità, gioia, insomma. Siete contenti, insomma, ecco, di quello come sta andando? Dimmi. No, dicevo, siete veramente contenti, insomma, ecco, di come stanno andando queste cose? Le prime date comunque si passa sempre dalle 5 persone, vabbè, che siamo una band che sta cercando di emergere, siamo nati dal niente, però certo. Già nel giro di un anno, da quando è uscito il CD e tutto il resto, si vede il riscontro già nelle ultime date che abbiamo affrontato. Siamo molto contenti comunque del risultato, dai. Concludiamo questa prima parte con i Molly Hatchet. Alla fine degli anni 70 la band di Danny Joe Brown fu indicata come erede di Lynyrd Skynyrd, salvo poi virare ad un suono più heavy. Dal disco Flirting with Disaster del 1979 la canzone Whiskey Man. Noi ci ritroviamo dopo la pubblicità con i Roadless.